cielo. Ma si sente l'uccello? Però non sei stato tu con l'uccello, eh? E quello fischierato, no? Cos'è, un merlo indiano? C'è un canarino, un merlo indiano. Incrociato, E cosa è incrociato? Ah, sono i gusti che fa, guarda, me lo sento. Sentito là, anche tu, l'uccello. Poi canta così perché sta cercando l'uccella. Burrado, Ah no, visto che mette il padrone che si mi via. Compragliela la femminuccia allora. Già ce l'ha, ma sta corrando. Capito? Cinque uova c'erano, ne sono nati tre, mi sembra già. E allora si è impegnato forte. Ne è un'altra coppia da un'altra parte. Però quelli ancora sono piccoli. Avevo le coccolite, ne ho bugato tutto. Thank you. sono il QRM a 5, io non ti sento più. Quel passaggio, mi sta facendo stare dal letto. Quel passaggio, un attimo. Ma ho il... Sì, sono quasi 9 adesso. Forse manco 9:10. Già, ma per la salita che ti interessa. Salita, te com'è? Sentiamo quasi 3. E quindi c'è la differenza. Ma poi 9:25 qua. L'antenna se ti la metti sul tetto prendi a tutti i costi bene, ma se è così ci sono le zone d'ombra e le zone che capita arrivi male perché ce l'hai nascosta. Non mi sta rendendo bene, punto. Io lo so che non è, non sta rendendo bene. Ma è logico che ce l'ho nascosta, però almeno fra così nel più mi arrivava, io l'ascoltavo bene anche un prima. Tu sei non fosse, lui è nascosto ai palazzi. Insomma, non è che vi vedete come antenne. Ehi, però l'ho ascoltato bene prima, come si spiega? Ah, boh. Cosa volevo fare un campo adesso? Niente, qua sempre qua. Cosa volevo ascoltare la parrucchia? La Juventus Vendia, cazzo, lo è andato un campo, no? Adesso mi sto incazzando. Già, ce l'hai l'LPD? No, non ce l'ho qua. Perché volevo fare una prova per se ci senti qua. E ci sentiamo, l'abbiamo già fatta. No, con questo portatile qui volevo vedere se ti ascoltavo. E qua, adesso sono coricato, non ha giocato la divisamente. Mi dovrei alzare e andare sulla... dove lo lascio, la pizza. E io in un altro momento, va. Però io l'ho aumentato adesso. Guarda. Bella ora, mi sono messo nella posizione con il processo. Adesso è un po' più chiaro, ti sento, però il segnale non è aumentato. Ti porto uguali, mi sa che sì. Magari hai fatto già l'antenna al carro, magari ci avrai, ho già visto anche la sera, è una chance. Ma cosa devi comprare nuovo? Sì, l'antenna la buona anche la gabbiatura, vedi come dici, mi sta lasciando come c'è bene. A quadrato arrivava 9:25. Ma se la successo che non c'è l'asfalto, quello là. Si arrivi, gli arrivi. Allora, ho fatto. Prendo grande, ciao Natalino, buonasera, vatti già. Comunque questo è andato bene, 9:10 come sempre. Guardi che bene, come sempre, qual è il problema? Oggi lo sento, faccia con due, la prigione non sento veramente, invece oggi lo sento, e ripeto da lui, capito? Tu qua devi bere come sempre, 9:10. E tu adesso mi faccio un disparo, va, se ascoltate mi faccio un disparo e vediamo la situazione, se riesco a beccarvi in pieno. Poi la salita, ascolti. No, adesso vado e mi faccio un dipolo, va. Continuate, mi faccio un dipolo e ne ho le palle piene, devo sentire bene la gente. Aspetta, Gianni, non c'è più. Aspetta, ho la carina, ascolti. Poi io ti ascolto due, di solito mi ascolto una. Ascolta una cosa, ma la bolletta della luce l'avete pagata? Perché forse si stava andando di meno corrente, perché gli eventi a 200, capito? È per quello che ci dicono più facile. Magari è successo così, capito? Come c'è, l'avete pagata a metà, o magari mancavano 3-4 euro, però abbiamo tolto 20 forse euro dalla 220, quindi avendo 200 volte, quindi automaticamente l'alimentatore si è alimentato e quindi lo dicevo, sei dati se ce l'ho con me. Attenzione Natalino. Thank you. non bisognerà stanno anche la salute, a qualche goglia. Ma ascolta, questo anche gli parlato là, che c'è cosa per lui da fare. Quando sempre sempre uguale, ma vuol dire che la 5 perfetta. Capito? Poi gli andrà se c'è stazionale, se c'è la stazionale. Situati, perché non hai la caccia di situati, capito? magari magari per forza tra me. Anto Massimiliano, ascolta, ma poco fa mi è arrivato come radio, sì, segnale 9, adesso hai diminuito parecchio, come mai? Mamma mia, non so più cosa fare, io non mi dici di più, uno di meno, no, non mi dico più cosa c'è prendere. Quando mi segnale adesso? Anto, poco fa, come radio, sta dicendo 5 e mezzo, sì, e segnale 9-10. Adesso c'hai segnale 7 e radio 4 e mezzo 5. Se ti stanno passando, non so chi sia, 9-10, allora restate. No, poco fa mi ha arrivato segnale 9-10 e radio 5 e mezzo 6. Adesso mi sta arrivando 4 e mezzo segnale 7. Non so più cosa fare. Qua sta arrivando bene. Eppure Anto, noi siamo di fronte, e ti fidi, siamo quasi di fronte. Non so più cosa fare, mi sono sposato, non mi sono sposato di posizione io adesso. E c'è più. A fare cosa aumenta, aumenta. Perché da qualche periodo aumenta là. E adesso mi ci è arrivato meglio. Sono io che sto combattendo. Tanto adesso è radio 6. Qua c'è il capo UTL, dobbiamo vedere il TL funziona bene. Capito col sensor e vedere se fa marcia bene. Capito mi hai. Ma che sbagliato la posizione, però. Ah, lui sapeva così. 9-10 radio 5. A me ne arrivi 6 come radio. La radio 65, sì, lo faccio, sì, sto passando a posto. Il segnale com'è? Segnale 9, da me. Non tappa, vero? Tappa, adesso sei 9, 9 pieno. Vabbè, comunque forse è così, forse il tiro magari è ammazzato, sta boccata, forse è il capo. Vabbè. Può essere così, guarda lei, comunque qua è sempre uguale. Ma io sono assaggiata. Facciamo, se ci sono problemi io lo vedo anche la differenza, non è che noi si fanno scout una cosa per te. Sai così. quando parli a volte si abbassa a 8 come segnale, poi sale di nuovo a 9. Comunque adesso gli ultimi passaggi stavi ieri ai 9 pieno di segnale, capito? E ti conviene ti controlli bene il cavo, tutto quanto, ne togli i PL, li pulisci bene, poi li riavviti e vedi un po'. Che?